I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Stiamo per entrare nel vivo della campagna per la dichiarazione dei redditi 2017. Subito dopo Pasqua l'Agenzia delle Entrate metterà online oltre 30 milioni di modelli precompilati e per tutti sarà necessario verificare, trovare, cercare i dati, a partire ovviamente da quelle voci che consentono di ottenere sconti sulle tasse da pagare. Diciamo subito che non sarà facile. Per spiegare ai cittadini come utilizzare i sempre più numerosi sconti e bonus fiscali, l'Agenzia ha messo a punto nei giorni scorsi un documento di ben 324 pagine che si aggiungono alle decine e decine di pagine di istruzioni contenute nei modelli stessi di dichiarazione. La verità è che il sistema degli sconti fiscali è diventato negli anni un mare magnum di complessità, fatto di una casistica sterminata di regole e di eccezioni che purtroppo non aiutano i cittadini. Anche per questo motivo da tempo si parla della necessità di riordinare gli sconti fiscali. La cosa non è mai stata fatta, anche perché molti temono, forse giustamente, che il riordino possa in realtà tradursi in un aumento delle tasse. Però, insomma, il sistema resta molto complesso, ingarbugliato e viene modificato e ritoccato in continuazione. L'anno scorso abbiamo avuto 39 interventi su detrazioni e sconti fiscali e negli ultimi 5 anni gli interventi sono stati ben 127, come se il governo e il Parlamento fossero intervenuti due volte al mese per introdurre o correggere sconti fiscali, cosa che ha contribuito a rendere il sistema più instabile e più complesso. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. Alla fine il sorpasso è avvenuto. Qualche settimana fa la Tesla, la famosa casa di Elon Musk che produce automobili elettriche ad alta velocità, dopo aver sorpassato la Ford, ha sorpassato anche la General Motors. Ufficialmente, da questo momento, la Tesla è la casa automobilistica americana con il più alto valore al mondo. Stiamo parlando di circa 1,7 miliardi in più sul valore della General Motors, che già era un valore alto, e soprattutto stiamo parlando di una casa che in realtà produce, se no, un terzo delle automobili della General Motors. Misteri della borsa, ma soprattutto misteri di un successo che affonda le sue radici nella voglia di innovazione, nella voglia di novità e soprattutto verso quel mondo fatto di automobili a guida automatica, elettriche, che non consumano, che non hanno impatto ambientale, ma che ci creano tanti punti interrogativi su quello che sarà non soltanto il futuro del trasporto, il futuro dell'automobile così come la conosciamo, ma soprattutto il futuro di una società che è sempre più divisa tra necessità ambientali e necessità della borsa. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.